16 novembre si è tenuto a Roma l'incontro Costruire Ponti di Pace, un dialogo con esponenti della società civile irachena. L'iniziativa è stata promossa da una serie di associazioni, tra cui Un Ponte Per, con il contributo della provincia di Roma. L'incontro è servito a dimostrare che in Iraq, nonostante anni di dittatura, guerre, embargo e un'occupazione che si è fatta sempre più violenta e pressante, esiste ancora una società civile che resiste e che opera per il miglioramento delle condizioni di vita dei propri cittadini. Una società civile di cui fa parte anche il mondo religioso e che ci segnala degli inediti punti di vista che le cronache di guerra ignorano. Ascoltiamo lo sceicco Mohammed Hussein, imam della moschea di Al-Zafarania. La nostra società, come sapete, non è molto diversa dalla società italiana. Sono passato per le strade dell'Italia anche se... E ho visto in Italia che gli italiani sono molto fieri del loro patrimonio familiare e della loro tradizione. Vediamo questa tradizione nei vecchi palazzi, nei vostri libri di storia. Vediamo anche questa tradizione nella vostra esperienza. L'esperienza italiana è molto simile all'esperienza irachena. È molto simile alla vostra esperienza dopo la Seconda Guerra Mondiale e dopo la caduta del dittatore. L'Iraq attualmente subisce l'occupazione. Abbiamo bisogno di ricostruire le nostre istituzioni civili e soprattutto le organizzazioni e le associazioni civili. Un altro degli elementi che i media mainstream occidentali non riescono o non vogliono registrare è la sostanziale omogeneità identitaria della società irachena, come testimonia ancora lo Sheikh Hussein. Non parlare solo di sunniti e di sciiti, non parlare di cristiani dell'Iraq. I cristiani hanno le stesse nostre preoccupazioni. I cristiani hanno presentato qualcuno sta cercando di stabilizzare la sicurezza in Iraq e la popolazione irachena e i legami tra gli irachini, che avete visto gli attacchi. Siamo sempre vissuti insieme cristiani e i fratelli cristiani avevano un ruolo principale nella costruzione della società irachena, nella costruzione delle istituzioni irachene. Non c'è stata mai ostilità, noi siamo insieme. ويكرم بعضنا بعضا ولا تعتقدون أن محدثكم ليس له علاقة واسعة بشريحة كبيرة من الإخوة القساوسة والرهبان ومن الإخوة المسيحيين فكما أن جاري مسلم جاري الآخر مسيح مسلمان ما l'altro mio vicino è cristiano. نحن إخوتي وأخواتي شعب مترابط. Sorelle, siamo un popolo unico. ونريد منكم أن تنظروا الشعب العراقي على أنه شعب حي وشعب موحد لا مفرق. Unico, non frammentato. أنا من موقع هذا أمثل أيضا الإخوة الأكراد. Mia posizione rappresento anche i fratelli curdi. الأكراد شعبنا في الشمال. I curdi, il nostro... أعطوا من التضحيات الكثير الكثير. وكما عليهم واجبات فإن لهم حقوق. Hanno dei doveri ma hanno anche dei diritti. نحن نؤمن بأن noi crediamo كل الشعب العراقي che tutto il popolo iracheno ينبغي أن يتنعم بالنعم التي أعطاه الله ولكن للأسف الغني المقيد الذي لا يستطيع أن يتنعم بنعمته Noi siamo ricchi, ma non abbiamo diritto alle nostre ricchezze. Il dato dell'omogeneità culturale e sociale irachena è testimoniato anche dallo sceicco Anwar Yunis, 27 anni, imam della comunità sciita del quartiere Al-Nasser City di Baghdad, nella area depressa situata a nord-est di Al-Sadr City, che, come sostiene lo stesso sceicco, è un microcosmo che riproduce le caratteristiche sociali e culturali dell'Iraq. Ascoltiamolo. Quando parlo della Sadr City è come se parlassi dell'Iraq. Sadr City, dal punto di vista sociale, è un piccolo Iraq, perché se vieni dalla parte meridionale di Sadr City vedi che i quartieri curdi ci sono. Se arrivi al centro di Sadr City vedi le varie provenienze dal sud, dal Kurdistan, dai turcomeni, con delle minoranze ignote come gli yazidi o sabiti e i cristiani. Ma anche se i cristiani non sono una minoranza ignota, ma ben nota. Invece se uno visita la parte settentrionale di Sadr City, si vedono molti abitanti che provengono dal sud dell'Iraq, che hanno preso il nord della città come... Sadr City un po' è un'immagine rovesciata dell'Iraq. I curdi abitano al sud di Sadr City, mentre gli sciiti che provengono dal sud del paese abitano la parte nord dell'Iraq. Sadr City è un piccolo Iraq girato, se volete dire geograficamente. Per ora e finora Sadr City, pur essendo così variegata, costituisce una sola unità, con un aiuto, con una regola che rispetta i criteri clanici. Lo sceicco Yunis ha inoltre segnalato i principali cambiamenti fra l'era di Saddam e l'attuale fase. Ma il reddito pro capite non superava $6 al mese ai tempi di Saddam, $6 al mese. Prima di entrare qui in questa sala di conferenze ho chiesto quanto costa un ombrello, mi è stato detto che l'ombrello costa $7 qui a Roma, dunque un poveraccio a Sadr City dopo un mese di lavoro duro poteva comprare un ombrello a Roma, e nemmeno un ombrello di qualità. Ora la situazione economica è cambiata. Ora il reddito pro capite è $30 al mese. Questa città, Sadr City, e dico questo è un prototipo, se volete, è un esempio su altre città irachene. Questa città, dico, ha subito delle ingiustizie. Tutto l'apparato repressivo del regime di Saddam si è esercitato su Sadr City. Io non sostengo l'occupazione assolutamente, né voglio la presenza di occupanti nemmeno un secondo, però devo dire la verità. D'altro canto, il regime ha ucciso 6 milioni di iracheni durante i 35 anni di regime, e questo è documentato. Dopo un anno e mezzo di occupazione, nonostante tutto questo sangue iracheno che scorre per le strade, è una cosa preziosa, però in tutta franchezza ora c'è una speranza di poter progredire molto più di quella poca speranza che c'era ai tempi di Saddam. Questo è un mio punto di vista personale. Le considerazioni dell'imam Yunis aprono tutta una serie di riflessioni che richiederanno un ampio dibattito, su cui forse c'è una sola certezza: l'impossibilità di risolverlo con categorie dicotomiche. Leopoldo Calabria, amisnet.org.